sì, già sentiamo, io sono un po' assente in questo periodo, ma già ci sentiamo, fammi bene, salutami a casa, vieni. Poi ho attaccato l'uscita si fa, diciamo, al getto, ok? Sempre in uscita. Ok. Poi, dal getto che praticamente un cazzo, ok? Sono allungato, sai lì. Aspetta un attimino, Claudio. RTX, a malacchino. RTX, trasmettetore, Fabrizio. Fabrizio, c'è un disaccordo però lì. Certo che c'è un disaccordo però, perché non è praticamente messo in linea bene. Quello andava bene con il Midland va bene. Il Midland è qua, però aspetta, vediamo un po'. No, sono un casino qua, era. Sala maletta, tutto a 10 va, più di 10 anche. Trovato più di 10. Vediamo qua, aspetta col Milan, là, un attimo. Aspetta, facciamo più di 10. Come ti fa l'accento, ti ho detto? Se ti fa l'accento, è conta, ci sono le tacchette. Allora, vediamo un po', questo è il Midland. Allora. E mi dà negativo qua. Ah, così sono fissi 10. Adesso me la scala 100. Forse me la scala 100. Allora, vediamo un po'. 2 secondi, sto pensando un attimo. Allora, vediamo un po'. Vaffanculo. Allora, qua, così, ecco, 1 e 4, 1 e 3, 1 e 4 sono stazionati. 30 watt. No, mi sta l'accento, hai visto? Allora non so più 20, ecco perché c'ho 20, non sono 20, sono 30. No, 30 watt, se scalda non vuoi un asino, sta cosa. Poi scaldendi. Infatti svelmo. Lasciamo vedere. Allora, rivediamo un po'. La situazione è qua, come? Ci sono 1 e 5 modulati da pischiando. E 35 watt sono qua. Watt, vaffanculo, ma in per il 7. 1-1 Claudio. Invece c'ho il 140, guarda, se servizio c'ho 40, Ma non so che è stato male. Ma l'hai messo tu come manuale d'uso, l'hai messo al motore di licenza? No, ho messo solo il tipo dell'apparecchio qui, volevo vedere se c'era la voce a fianco, che ha fatto un manuale, eccetera, eccetera, come di solito c'è. No, vabbè, non hai detto che ci sia così in mente, no, ci sono lunghe pagine, ma è con la parizia, se sei fortunato non trovi subito. Poi c'è questo trasmettitore Major, cioè questo 320.000 lire costava nell'85, un portatile per auto. Lo so. Lo conosco. Salutava non vedevi là, se non avete preso i microfoni, preso assurdi. No, che microfono? Allora, l'MC60 costava 283.000 lire. Allora, seconda mano. L'MC80 invece non capisco costava di meno, 191. E l'MC85 276. Ma poi non le buscate che siete in vista, no? Mentre il Turner più 3, 116.500 lire. E più 3 lire per essere quello da farlo, 91.000 lire. Poi ci sono tutti gli apparati HS, i Prisci. Il 930 dalla Kenwood costava 635.000 lire. Ecco, forse come sono roba che vado a mettere la mia sangue padre. Come subito. No, ma riprendi Luca, ma Mario non ci sono luci. Mario, che ci sei fatto un colpo. Spero un attimo, 2 secondi. No, ben ti va, sono durati solo. È un passaggio, Luca. Ah, se prova la con le ferie, prova. Vediamo un po', attenuami tu, adesso stacco. Attenuami, guarda un po'. Non è che non sono grosse differenze, se lo dici sembra che c'è picchi negativi. Adesso. Prova, fa passaggio. 1, 2, 3. Ora, un attimo saranno negativi. Ora. Perché c'ho? No, aspetta, scusa un attimo. Così, proprio di... sto strappando. Stai strappando, infatti ti volevo dire quello, stai strappando col microfono. Ho già l'ingresso troppo alto per quella di gesto. Aspetta. E mo lo sistemo io, un attimo. Allora. E beh, come mai? Un attimo, ce l'ho accordato. E ho su. Come fa accordare? Ah, ecco. Vediamo un po'. Adesso lo sto strappando però, no? No, adesso sei a posto. Fai un passaggio per le statistiche negative. 1, 2, 3, prova di modulazione. No, adesso è tutto positivo. Non si va da Sargossa, ma... secondo me quegli apparati sono troppo ridotti, rimpiccioliti, per cui tanti sono adesso a dissipare. Una volta che scadono troppo, vanno fuori in sintonia, sicuramente. Appa. Ma non è che c'è il problema di alimentatore, invece? Tu quanti ampi tu l'alimentatore? Aspetta, quello solo la tua roba, scusa. Qua non sta segnando niente, è così imballato, mi pare. Aspetta. No, si incanta. Antonio, ragazza Giulia, si incanta. Allora, fondo scala. Non si vede. Deve far andare a fondo scala, Luca, se no si brucia. Allora, devo mandarla a fondo scala. No, sto parlando dell'accordatore che si blocca. Vabbè, stazione non le ho, la bulla cappa, lo stacco, c'è la luce. No, ho capito se stai parlando del vapor. Che ti fa mi pare 500 domande, un po' di roba, più 60 giochi, giochi di intelligenza, i contrari, eccetera, eccetera. Diciamo che certe domande sono troppo evolute per lui, però non abbiamo già solo portato avanti quando va anche nelle scuole più alte. Beh, noi le abbiamo preso quello fino a 6 anni. Possiamo condannare altri, capito? Non c'è problema per questo. Il problema è, cioè, se la stessa cosa è gioco, ma stai imparando un sacco di cose. La pagata, no. Mentre io sto contento da quei giochi, infatti quando vengono i cugini vanno a giocare con la PlayStation, mamma mia, mi sbatta, mi fa uscire quelli che stanno ore e ore attaccati, come a lui, state scherzando. Cioè, è brutto, a me non piace. Già non piace a me personalmente giocare ai videogiochi, non mi è mai piaciuto. E tantomeno non voglio che ci vada la mia figlia. Ogni tanto mi ci prende quei dischettini, qualche giochettino così, ma semplice semplice, appena la vedo più di mezz'ora dico sacca di tutto. Buonasera, Ciao a tutti. Buonasera anche a te. Comunque Rob è no, Marco piace la PlayStation, però le diamo il tempo che ci deve stare. Poi accettiamo un certo momento che lo sappiamo. Non è che deve stare sempre giocato con la PlayStation, se no si mabbiocchisce. Avanti. Le giocatori, ti metti l'altro giorno quando stavano giocando mi hanno fatto un giocatore, ma karaoke, c'è PlayStation, c'è serio un'altra fedeltà, insomma un po' di tutto ciò, non mi manca niente. No, ma questa era divertente perché era micidiale, sembrava che stava facendo l'identità, eravamo noi anche adulti, io, mio fratello, mia cognata, mia moglie, e c'erano i bambini lì, che dice, disegna Gio Roberto, dice, è iniziato a fare la testa mia, l'aveva potuto fare più stretta, più grande, più tonda, il collo corto, c'erano tutte le misure, e poi per analizzare, ma le risate, perché poi alla faccia mia li mettevano per dire i baffi, gli orecchi più lunghi, gli occhi alla cinese, oppure gli occhi tondi, gli occhi chiusi, era un piscio. Avanti, chi no, è andato via, perlomeno è andato a mangiare, è entrato e poi è andato a mangiare. Prova a chiamarlo, adesso lo chiamare, se magari alla scuola. Pochino. Ciao Luca. Se vuoi entra, non c'è problema, se ben accetto. Ehi, a Roberto. Ma in classe, Papa Luca saluta a tutti. Poi non si fa bene, arriva tanti al morto, Luca qua, però è molto basso di radio, è mezzo a correre stranamente, qua arriva, cioè come segnale è buono, non capisco perché è basso di radio. Buonasera, quello mi accollo, buonasera, come va signori, tutto bene? Stavo cercando, ma poi non è ancora arrivato, come ti va? Sono rientrato poco fa perché avevo un amico e niente, sono arrivato un'ora un'ora, mi ho fatto un pallino e adesso ho acceso l'apparato, tutto qui, sì. E diciamo di sì, mai, un po' stanchi siamo, va, ma già finisce questa settimana pure. Ciao Mario. Mario Masse. Luca, mi ascolti a me? Luca Pliffe. Non mi ascolta a me. Non mi ascolta. E me Mario, allora. Avanti Roberto, dai. Stavo dicendo Mario, ci parlavamo di tutta una cosa, ho cercato prima, ho detto, tu chissà il prescritto Mario, vedo chi sta lì, e mi ha già detto, deve mettere qualche scena, la sta buffata. Ma ragazzi, sono andato da un amico, poi niente, abbiamo ci ha occupato un po', poi tutto a casa. E niente, cosa ci volete fare? Purtroppo è così, domani si lavora, fino a mezzogiorno, e poi che procede tutto bene, è un po' stanchi. Poi interessante che vada tutto bene, la salute soprattutto, quella è la prima in assoluto. Ecco, guarda, a chi lo dice, sono stato io prima che dico che prima la salute, poi i soldini, e dopo i soldini tutto il resto. Gamma. E salute e soldi sono quasi alla paglia. No. Parli. Dani. Eia. L'ordine mio invece, la salute, la famiglia è duri di una. Vabbè, stiamo parlando singolarmente, anche io naturalmente metto anche la famiglia, cioè, ci mancherebbe altro. La famiglia è tutto me stesso, figurati se non ce la mette meno. Poi io qua ho pochi parenti perché tanti mio padre sono tutti di Milano, quindi ti puoi immaginare, l'unica famiglia che c'è è quella attuale, la mia famiglia. Ma chi tu vivi a Milano hai detto? Quindi sei della letta di Bussi tu? No, non appartengo a Bussi. Anzi, Bussi mi pare un cane, gli abbaia e basta. Quindi non esci con la cravatta verde tu? No, ma verde non mi è mai piaciuta. Ne ho blu, ne ho rosse, ne ho gialle, ma proprio verde no. Io cravatta, se lo vuoi sapere, l'ultima volta che ho messo la cravatta quando mi sono sposato, il buco. In vita mia una volta solo, anzi, ho sposato la fratta due volte. No, io la uso spesso quando esco, quando vado a ballare, quando vado a cena e cose, la uso sempre. Non so farmi neanche il nodo, figurati, me l'ha arrivato il nodo quando mi sono sposato. Vabbè, quello lì è un male un po' di tutti. E tu mai la usi la cravatta? Ma quale cravatta? Un paio di volte, un paio di mattarone, una magliettina e tu dico. Per il battesimo mamma di tuo figlio, non so, cosa vuol dire. Per il battesimo del mio figlio, insomma, secondo me c'è la cravatta. Vabbè, erano altri tempi. Io ero più longilineo. Sì, allora me draghi, se lo dà, a chi ci dava ferrà, non si dava nebulo della cravatta. Maurizio Costa, cravatta con il basso. E ha vero, e io ci sono arrivato a vagonia frutto. Non riusciamo a parlare, ragazza, grazie. Anche Ferrara, ma lo oh, Ferrara, a me gli ha preso 40 kg, ha migliorato, ma è andata a burlare. Ecco, sta valore, gli ha rubato. E bisteccone. Mamma mia, quello non è andato a Lucia, io lo dico a me, la bisteccone. Se lo vedi ti fa paura. Non adesso, adesso è ancora peggio, parlo qualche anno fa. Sì, l'ho visto anche io, quando ho fatto la passata in Costa Smeralda. Attori contro giornalisti, mi pare, c'è la Bettarini, c'è la Simona Ventura, Simona Ventura mi ha anche preso a braccetto e ci ho filmato a casa. Cappa, ma c'è il sudore che deve scendere, ma è una cosa, la fa di schifo quando l'ho visto io. E non c'era tutto questo caldo? Lo so, anche quando l'ho visto io era così. Poi c'era... c'era quella bionda che fa il film con Vito Brass, quella bella munita, quella lì, poi c'era un sacco di attrici qua, un bel poi c'era uno di Zizzo, che è quello biondo, quel ragazzino biondo, insomma c'era la bomba. Ma tu stai parlando di recente, no, io sto parlando un sacco di anni fa, io poi non ci vado qui, che non vado in Costa Smeralda, boh, prima di cose, no, forse sono andati, quando sei l'anno che mi sono soldato l'ultima volta. Beh, io ci vado quasi ogni anno perché ci abita mio cognato a Olbia e poi siamo una settimana, due settimane, dipende. E la notte andiamo in giro, porto cervo, porto fondo, ti senti una cacca perché c'è tre cose, Robert. No, non ti credere, no, ma sinceramente io ti posso dire una cosa, prima di sposarmi quando andavamo in giro con gli amici eccetera eccetera, una volta sono andato in questo locale di Porto Cervo, ti posso dire che non facevo entrare adesso, noi eravamo questi qui un bel randaggio, nel senso camicia havaiane, in zuccoli, in ciabatte, cosa vedete, forse sarebbe il lato barcoso, parriconi che sarebbe là, tu vedi la gente che c'era fuori, non li facevano entrare, a lui ci hanno fatto entrare, al sottovento sto parlando. Io sono andato anche alla Maida, al locale di Umberto Smaida. Praticamente butta fuori di quel locale lì, abita di fronte al mio cognato, nella porta, nella villa che c'è a fianco. E quindi si può immaginare, non abbiamo pagato manco la lira, ci pagava allora 150 mila lire solo per entrare. No, poi sono andato al Gips, che era il locale più chic di Porto Cervo, non so se tu ricordi, quello attivista, Jim Cagnè, un miliardario, un pieno di denaro, ed era lui il titolare, prima che esistesse lo Smaida, io sto parlando del 85, 86, in quegli anni lì. E comunque, io mi sono sbattuto con... ma non mi viene adesso. Lasciami pensare, mi sono sbattuto con un'attrice famosa, aspetta che non mi ricordo chi è, e ci siamo guardati, ci siamo fatti i soldi, però non l'avevo riconosciuto e abbiamo detto, ma non avevo visto chi era. Aspetta. Una compagnia di scuola, non l'ho salutata. Diciamo pure, ma Gianni. Sto pensando come si chiamano, piacere, un lapsus, dimmi. Un 4-5 anni fa sono andato, per questo lavoro siamo andati, mi sembra, a Bologna, eccetera, eccetera, e abbiamo preso il volo insieme a Coso, a Coso Maggiuni e a, come si chiamano con le sorelle, Carlucci. I due con i venni non si sono guardati in faccia, loro c'era uno a fianco all'altro, li sono passati davanti, l'aereo prima di partire ha tardato un paio di minuti perché stavano aspettando a loro. Si è passato davanti a Coso, a Mili Carlucci, non si è manco girato da lì, proprio deve essere che hanno fatto il problema a loro due, non si sono neanche dati uno sguardo, uno si è messo dalla parte e uno dall'altra, proprio non si sono sbagliati per tutto il viaggio da Bologna a Roma, non si sono neanche guardati un attimino in faccia. Probabilmente ha avuto problemi artistici sicuramente. E la sega che con l'ambiente lì un po' così, capito? C'è molta invidia, c'è un sacco di roba lì. Aspetta, non lo ricordo il nome di quell'artista, sto cercando di pensarci. Artista italiano o straniera? No, italiano. più magari la prima se ti devi aspettare. Facciamo il messaggio, o non mi viene. Ma nella musica diciamo. Esattamente. Chi sarà la fila, la tutti non lo sapete, non è che ce ne sono molti di o cose, come si diciamo, la video della Celentana. E io non è la musica. Mi sono dato con nome la musica. E ho detto scusi, guarda, a lei mi ha guardato, ha fatto il sorriso, però sul momento non. Mi sembrava di cosa, però non mi è venuto in mente, non mi è venuto in mente, non mi è venuto in mente. Oh, sinceramente a me non me l'ha potuta, mi vuoi far vedere un presidente della Repubblica Americana, però non me l'ha potuta, sinceramente, non sono tipo, io sono amici appena vedo la gente subito si va ai concerti, si sciolgono la faccia la fotografia, a me non me l'ha potuta, proprio nulla, va, se noi ci mai qualche giocatore a toccare la mano, qualche campione di algombrismo tipo Schumacher, però degli attori, delle attrici proprio la gente, un tipo di personaggi che non mi attirano assolutamente, proprio non li vedo per niente. Oh, poi c'era anche di tutti questo personaggio, non so se sono tutti lo chiamavano, tutti, vedono se c'è la firma, questo con la chiusa salvatrice, si sa se potevano gli autografi e cosa, se lui passa sul dritto non ha cagato nessuno. Guarda, quello non lo posso vedere tutti, ma cacciatore che posso dire non lo posso vedere. La passata non la studiamo in intero, stiamo parlando di simpaticone. Sì. Io ho un amico carissimo che è sposato, adesso sono sposati con il direttore del Roccaruia, a Codo, con il proprio direttore del Roccaruia, cioè erano, all'epoca erano fidanzati, e dice adesso non so se c'è venuto Del Piero, però tutti gli anni andava Del Piero di lì a Roccaruia. Anche con cui andava sempre di assunto. E ti sto dicendo, è arrivato lui, dice, con una prosopopea, questo tipo, questo imbecille, è arrivato di lì e prende a voce questo cameriere che gli porta un aperitivo. Tu non sai che quando arrivo io, ha preso a voce, io voglio la ciliegina e non me l'hai messa. Non ha preso a voce la mangiatina di una vergogna, questo si è rimasto talmente male. Uff, ma questo cane ha trattato, gli avrei avuto dal bacco. No, io gli avrei dato la... Guarda, i veri campioni non sono i campioni in campo, no? Devono essere campioni puri, tipo Lola, tipo Baggio e pochissimi altri, tipo Riva, ma tutta la carriera, Del Piero, tutti, sono tutti bombati, gente, soprattutto tutti, tu devi vedere a Roma, io a Roma ci sono stato tante volte, e ti posso dire che se tu senti le radio di Roma non fanno altro che parlare di tutti, a loro è esagerato, a tutte le ore, a tutte le radio c'è sempre tutti per lo meno. Sono convinti che sia dopo il fatto dello sputo, per me ha riportato quello che è. Ma è un rosone, se tu vai a vedere bene è una persona analfabeta, non sa manco babbizzare, capito? Hanno fatto anche il libro sulle parole che sbaglia, figura di tu. Ma comunque è un antipaticone, così è anche cosa, non Schumacher, è Schumacher, sì. Ma adesso mio cognato lo stesso che è andato a chiedere una firma a Schumacher e coso, ha detto che è passato dritto, non ha manco di striscio. Ma vabbè, diciamo che in certe situazioni non li posso dire niente perché ecco, di sai che anche gli enti che vanno hanno preso alla fine sono anche stufi di queste cose. Però se posso dire, io Schumacher non lo critico più di tanto perché secondo me è un grande campione, forse il più forte di tutti, anche se ci sono da dire delle cose su Schumacher pure. Sì, ma Schumacher è un bel convinto, perché se tu senti la madre di Schumacher quello che ha detto, che era povera e così, lui non ha mai mosso un dito, è mezzo alla strada. No, di questo non c'è di questo esattamente il contrario. Io so che ha regalato più di un miliardo quando è successa quell'alluvione nei paesi della Baviera, quando qualche anno fa. Lui alla madre non so cosa era successo, che aveva avuto problemi, anche a fratello ha aiutato problemi tipo abuso di soldi, là, diciamo, degli investimenti sbagliati, gli era tirati dalla stanca, forse per quello non gli erano più di soldi. Io mi sono intervistato alla madre su un giornale che diceva che malgrado tutto, sapendo che erano poveri e cose, non ha mai lanciato una lira per aiutare. Adesso così ho detto e così ti sto dicendo. Comunque, mio cognato mi ha detto che ha un caratteraccio. Vabbè, da questo punto di vista non lo conosco, però posso dire che nel suo lavoro è il numero uno, secondo me. Anche se questo brasiliano nuovo che è arrivato non scherza, ti dico che è una simpaticona di prima qualità. Guarda, abbiamo chiesto una foto, appena si è abbracciata a me, mia moglie mi ha fatto la fotografia abbracciata con lì. E a sua volta lei ce l'ha fatta con quel canino. Quindi se ti paghi, no, pensavo, perché che tua moglie non ha detto niente. No, quel canino gli ha messo la mano sotto la spalla, così, e ci ha fatto la fotografia con quel canino. Era bella bronzato, è un bel tipo, è un po' di dubbio. Ma se non ho pensato, da vero sembra più anziana, lo sai. quindi dimostra che è un grande pilota Massa. Ma guarda che quando ha avuto la macchina a posto anche Barrichello faceva quasi lo stesso tempo di Schumacher. Poi bisogna vedere sempre il tempo come lo ha fatto, se l'ha fatto con poca benzina, se l'ha fatto con molta benzina. Guarda che a Barrichello ha fatto sempre il secondo, l'hanno sempre bloccato, doveva vincere per forza Schumacher. E quando una scuderia si dice di dover vincere Schumacher, cioè è una cosa un po' antipatica, cioè, perché a me mi piacciono le gare delle moto, però hai visto che cosa si è portato tutti quanti i meccanici, la moto è lui con i suoi meccanici che la crea vincente, non è un certo, diciamo così, un Schumacher che ha fatto grande la Ferrari, non è vero niente, sono stati gli ingegneri, i collaboratori e quant'altro c'era dietro, che gli hanno fatto una macchina su pennello, è vero, su misura. Però se non ci fosse stata la macchina non avrebbe fatto nulla, come tanti altri. Oh Gianni. Dimmi. Ascolta, dimmi una cosa, quanto costava questo strumento? Ma io sulle 100 qualche cosa, 120, 130. Ma io non mi da dire. Da dire. Ma cosa c'è la famiglia, non dire? Tu c'ha il 999, leggermente inferiore perché c'ha lo strumento unico e meno potente, e dopo più piccolino. Io sono strumenti e c'è anche la cornatore. Pure questa è la cornatore. No, pure questa è la cornatore già. Solo che c'è solo uno strumento. Ah, lo strumento è sbloccato, ma se tu già ce ne hai due, uno per il fatto e uno per il rosso. Ah. Oh, come sono quello lì? Non lo dico. Ma come c'è due lancette? Una. Una. C'è una lancetta. Poi vabbè, c'è tre manopole, di cui due sono da accordatore, una del rosmetro, poi c'ha uno, due, tre, quattro tastini. No, due tastini, ne ho uno solo anche per l'accordatore. Ma non so, ne ha quattro. Già l'hai visto il mio quanto è grande, così grande il tuo. Ah, il mio sì, non è molto grande, dai. Rimane lungo, rimane. Sarà. Boh, non sa roba, 30, 20, boh, 20 per 5, dai, sì, boh. Aspetta, ti do le misure, c'ho il catalogo da là. Aspetta, si sta parlando. Allora, esattamente la metà del tuo, come la chiesa è uguale al tuo, già, perché tu c'hai due strumenti, c'è un capo rosso accessore, è vero, la capimilla è così, poi c'hai quattro manopole rotanti. E c'è due strumenti gialloni, un sono, mentre lui c'ha uno strumento unico bianco, e più o meno la metà del tuo. Il suo pesa 600 grammi e il tuo pesa 1.400. No, ma le misure roba. Le misure sono 160x100x60 quello di Luca. Quello di Gianni è 170x170x115. No, è largo, 170 lungo, largo, quanto largo? Allora è alto il tuo, cioè lungo 15 cm, è alto 10 cm, quello di Gianni invece è largo 17, alto 17. Scappa. Gianni, l'ho visto tu, ma non me lo ricordo. Scappa. Vabbè. Comunque il mio è molto pratico, bellino, qui l'ho fatto vero. Comunque se non vedi come l'ho rinunciato, ma non te ne accorgi che è stato rinunciato. Ora ti passo il travaglio, dai. Dillo, mi dillo a Luca che gli amici come sono, lisci. Cappa. Verdolino brutto però c'è questo qua, adesso faccio nero. Però praticamente si avvicina al Mobicon, si avvicina, no, proprio, non è proprio uguale all'alimentatore, al colore. Tu niente di avanti, come ho fatto io. A me, come me l'hanno dato, era nuovo, quando ho notato il copino si è subito sfruttato e via. Tutto nero, perché ho tutto nero nella linea, quindi anche quello nero. Adesso vediamo. Prima metto lasciamo così. spettacolari a vedere, sono il quadrante bianco, hanno il coso, come si chiama, un quasi nero, dai, sono bellissimi. Chiamato lei, è brigato il tappo, no? No, non è negativo, non c'era bisogno, Luca. Non so quale luogo il tappo, no, non è che non è nella faccia né niente. Tutto qua. Ah, se vediamo, vediamo. Bimbo, però te lo lascio così, perché oggi mi sono una gara di 6 kg. Magari, come dice la primavera, a parte che me lo procurare, cioè ce l'ho già il mobiletto, ce l'ho già, è un casino qua. Forse mi prendo il mobile dello stereo, mi ci metto tutto dentro. Perché qua sul comune non ci sta più niente. Fatti una mensolina, Luca. Come la mensolina rifatto già, io lo lascio lo uso con il cazzo. E beh, perché non te la puoi fare a livello del letto? Te lo metti a livello del letto, scusa. Dai col telefono, riprendi tu Mario. Oh Gianni, dimmi. Metti il amplificatore che non lo c'hai tu, la capi 28 o 29? Che cosa? Il preamplificatore cosa c'è? La capi 28 o il 29? Non me lo ricordo. Perché quello l'ho fatto nero. Anche l'amplificatore, tutto nero. Ma manetti da Maria Musina o da Tucchetti, vai tu? Come te ce n'è, non frate non mi dia la vita, il verde lo uso io. Il verde è il marrone, il verde no, è il marrone, sono colori che io odio. Dimmi una cosa, la KT28 non ha lo strumento, mentre il 29 c'ha lo strumento, sono identici. No, non ne ha gli strumenti. Ti ho disegnato un'antenna con dei lampi per caso. Vabbè, la KT28, quello lì, fa da 28 a 30 MHz, c'ha 25 decibel di guadagno regolabile, alimentato da 10 a 15 volt, presa di selezione 0,2 dB, potenza massima 50 watt, peso sui 100 grammi. Mentre la KT29 identico c'ha solo lo strumento in più. No, sì, dovrebbe essere nuovo, perché io non l'ho mai usato, sì, con la fritta, l'ho comprato, mai usata. L'ho verniciata per averlo uguale ad altri strumenti, ma non l'ho mai trattata. Un giorno me lo presti, te lo provo. C'è il modulo nuovo, questa faglia cosa serve? Cioè che vantaggi ti dà, quella modulazione, regoli l'ascolto, dai. Qual è che c'è il modulo? Il tuo, l'ha capito, c'è scritto che c'è il modulo nuovo. Non c'è due manopole. E dovrebbe essere solo per la ricezione. Ah, due, no, questo c'ha un manopolone centrale al rosso, diciamo centrale al lato destro, e poi c'ha due interruttori. C'è scritto pre, off, l'interruttore non della accensione, poi c'è M e PCB. Ma quello lì però si è fatto lineare. No, stavo parlando per amplificatore. Ah no, aspetta un attimo, sto sbagliando, scusa. Non è per amplificatore dell'antenna, aspetta. Oh, beh, di lì. Questo qua ha fatto una bella registrazione, ci ha registrato anche lì sul canale. canale 10 27 075. Avanti, vai. Si è appagato, solo che è un po' con la paranoia, ha sempre il guarding a canale lì, a zero. A me mi dà poco male. Oh, Gianni, dimmi come. No, io già sono abituato, quando vieni là mi dicevi se te la scontro la stazione, il nome della stazione su 98.500 MHz in perfetta telefonia da Sassari. Allora lo devi dire sempre, così qualcuno si ricordava di sintonizzarsi un'altra volta, anche se lo dicevi è meglio. Va bene, quella pubblicità. È già lo dire, per cui non ci sono problemi. Poi se qualcuno non lo capisce glielo ripetiamo ogni tanto. E come facevi a far corrispondere tutto, famiglia, lavoro, radio? Sono qui a te, lo chiamo io. Io soltanto dico io perché la metà sono trucchi, forse sono una persona normale. Ci credi? Molte volte dico, ma tante cose le prova, soltanto dico le cose per la te. Ma adesso non basta una vita per me da vivere. E io sono preciso a te, però mia moglie mi rincorrerà sempre, mi dice, tu pensi a quelle cose, pensa di più ai bambini, pensa di più alla famiglia, pensa di più qua, pensa di più là, io penso di fare il più possibile, però a volte mi assento anche quando vado a pescare per dire, non mi assento dalla famiglia, ma lì lo sa che c'è questo, quindi adesso si è abituato. No, vabbè, anche loro non dicono quelli della famiglia, però se per esempio gli dico guarda che siamo lì, di inverno per credere, dove andiamo adesso? Perché l'estate magari nel periodo buono se ne va in giro, li fa una passeggiata, eccetera, eccetera. Adesso per credere, esce in giro, questo pubblico per quell'estate, aspettiamo una buona stagione. Ma trovo di pronto là, sarà sento di essere troppo. Sì, sì, fate attenzione, sì. Ha ragione. Ma cosa ha ragione, mamma mia, è uno sbaglio, questo per me è una cosa viziata, dai, così si dice. A volte siamo egoisti, capito? Perché io a volte me ne rendo conto, vorrei fare due cose in una volta, per dire, stare con i bambini e allo stesso tempo stare anche alla radio, perché è una cosa che a me piace, mi rilassa, però allo stesso tempo mi sento un po' in colpa perché magari non sono. Quando viene Marco mi dice papà leggimi una storia, lei sto parlando al barattino. Gappa, l'hai visto su quel film, mi sono per 4, Gianni? No, negativo. Allora guarda che quel film, questo tipo è riuscito, hanno fatto un esperimento, 4 persone, cioè ha fatto 4 studi, ha clonato 4 persone e c'era una persona che si faceva la partita di pallone, una che accudiva la moglie, l'altra che faceva i piatti, l'altra andava a lavorare, poi si faceva tutti i vestiti, era micidiale quel film. Poi uno è uscito male, con il quinto è uscito male, è uscito mezzo malato. Allora è simpatico quel film, ricorda il titolo, mi sono più in 4. E magari lo posso anche scaricare da internet. Come stavo dicendo, a volte hanno anche ragione loro, perché bisogna vedere degli spazi alternati. Sì, non lo metto in dubbio, ma già ce n'è di tempo, dai, cavolo. Certo, se tu dicendo di questo, magari adesso mi sentirai più spesso rispetto magari ad altre persone, anche per me sarà così, perché all'inizio c'è più voglia come tutte le cose, poi piano piano diminuirà, magari anziché farci un'ora, 2 ore al giorno, ci stai 20 minuti, 15 minuti, il giorno dopo non ci vai, poi magari il periodo estivo ti colleghi proprio niente, come tutte le cose, poi ti ritorna la voglia, là, per cui già si devono avere una calma anche loro. Più vuoi che ti giovi, è come una droga questa cosa qua, te lo dico per esperienza, almeno che sia solo con me che funzioni così, ma è una droga, guarda, da quando eravamo fidanzati mia moglie quando era in macchina non voleva mai che la accendessi, voleva che tu dici l'antenna e che spegnessi la parola, perché si incazzava, diceva che li lasciava perdere, che a lui non piaceva, che questo o quell'altro. Quindi lo posso spegnere sempre. E cazzo, come minimo già, in fidanzato c'erano altre cose da pensare. L'unica cosa è come se non mi ha mai fregata niente, altamente negativo. E io non l'ha mai potuto vedere, per meglio di te. Diciamo le donne, diciamo così così, anche io sono un po' contrario, anche mia moglie, ma la tutti i film. Perché magari l'idea magari ci sarebbe anche lei di mettersi in mezzo, insomma lascia prendere, perché non c'è il problema, perché parlo con te o con qualche altro e gente tranquilla, ma ci sono tutto maleducati e capponi, e quello non va bene, quello che sono donne. Capo, ma qualche sera magari la puoi fare entrare, salutiamo, così la coinvolgi anche a lì, no, sono contrario io, queste cose. cosa, non mi chiamare a salutare, sì, ciao ciao, capite quando è venuto a casa, l'ha conosciuto qua, l'ho presentato, l'ha salutato qualche volta al microfono, però è come se si conversazioni maschili non va bene, che poi dici tu che anche il disagio tu hai, non puoi parlare di certe cose, perché dice oh, no, c'è gente, per cui meglio non fare sentire e non far parlare, io la vedo così. Ci sono, per dire, se ci fossero canali solo di donne, tanto quanto. Mamma mia che maschilista che sia. Un po' gelosino, sì, dai, la verità. Io guardi, posso dire già, in tutti i difetti, però la gelosia è l'ultima cosa, c'è uno dei difetti che non ho. Infatti un bambino che dice, ma tu, assolutamente, certo, un pochettino tutti sono gelosi, ma io, da parte mia, assolutamente no. Bisogna sentire tua moglie. No, lei magari sicuramente è molto gelosa, secondo me, non io esattamente il contrario, non sono un tipo assolutamente. Certo, cazzo, se ci sono state situazioni a tutti danno fastidio, ma diciamo, nella norma stiamo parlando. Non è la gelosia, Una persona sì, un po' geloso, però io penso sia cioè, così. Io lo so di mia moglie e dei miei figli, spesso soprattutto. Avanti, ma. Comunque aspetta un attimo Mario, ti riprendo io. Comunque Robè ora c'entra, perché non entra la moglie di Franco, eppure parla con lui, ora c'entra. Mica lì ci vuole a parlare di baracchino di microfono. Entra, saluta, ci fa due chiacchiere, non è che. No, non sto dicendo quello Luca, io sto dicendo in certe situazioni le donne non si stanno troppo bene perché inizia a dire parolacce, cosa vuol dire? Io ho sentito un sacco di gente qua dicendo parolacce, facendo il capone non va bene, non ci sono donne secondo me. Ehi, vabbè, ma dipende sempre dalla situazione, vabbè, se c'è una ruota, poi all'interno se dovesse succedere una cosa del genere, prende e si non entra, tutto qua, non è che sia un problema, non so, vabbè, anni fa allora, 100 anni fa ti metteva la mano in testa. Dappa, ma l'altro giorno per dire anche Claudio, ha detto cosa, sono attenzione con le parolacce che c'è, la moglie deve ascoltarlo, non è bello dire parolacce o fare dei discorsi brutti in radio, secondo me. Se ne va un caffone ti mandi un canale in 5, tu dice per tutti i gusti. Ehi, babbo, pensa come vuoi, no? Non problem. Davanti Mario. Ma con tutti noi. Adesso qualcuna non muoverà più, però entravano tutte, non c'era niente di anormale, vabbè, perché c'era Rosa Bianca, poi c'era Principesso, c'era che Principesso ogni tanto entra, si apparte e saluta, non è che. E c'erano tante altre, ma per quello non succedeva nulla, mica, e cioè il capone di turno, se tu hai notato, entra, dice le parolacce e poi sparisce. Sì, Mario, ma quello che voglio dire io, una donna da sola, in mezzo a tanti uomini non sta bene, se ci sono altre donne sono d'accordo, si fa una volta di loro, si discute, però se tu fai una donna soltanto in mezzo a una conversazione di studi uomini, non è bello, a me non piace. Piace a tua moglie, se magari sente le persone che stanno parlando, che le piace come parlano, già c'entra, entra, saluta e tutto qua, non è che deve stare lì a. Beh, è una cosa molto strana. Comunque donne ne entravano tantissime. Tante. Adesso non ce n'è neanche l'ombra, però prima ne entravano tante ragazze tutto. Sì, sicuramente, infatti sto dicendo, se ce ne fossero altre magari poteva essere interessante, ma per entrare in una patola, così per entrare dice, beh ciao, ci vediamo, salutami quello, salutami quello, cosa state mangiando, viene a mangiare questo, ma non è una conversazione, quello è una conversazione come la stiamo facendo noi adesso. Ehi, vabbè, ma già c'entra, qua noi facevamo una ruota, come ti posso dire, 3-4 ragazze, noi, cosa sono 5-6 uomini e niente, già la ruota girava, cosa c'entra? Io parlavo uno con l'altro, non c'è problema, tutto qua, e si dice a tu e via. Tappa, riprendi Gianni e dacci un parere. Ma mi avviso, effetti infatti c'è la giornata Roberto, non ci fa nulla, ma allora mezzo a tanti uomini. Se si tratta di fare un discorso tranquillo, non penso che ci sia niente di male. Perché per dire, mia moglie quando mi deve chiamare per qualche cosa entra e chiede di fare il break, entra e chiede di me se ci sono lì a ruota, mi dice quello che mi deve dire e poi saluta tutti e se ne va, non è che entra lì a ruota, però solo per necessità lo fa, perché se no quello un telefonato a volte mi chiama la baracchina. Ma dico, non è che la gente che siamo qua siamo tutte persone tranquille, non penso che sapendo che tua moglie si metta la carta alla mano, ma perlomeno la parte mia non esiste. Sì, sì, lo so benissimo, no? Ma è capitato che sono andato dalle persone un po' maleducate o capone, là. E non è bello, là. E non ho sentito quello dell'altro giorno, ti ricordo. Certo, infatti lo sento, se sei una persona del genere è brutto, non va bene. A parte poi che magari uno viene anche un po', se conosce una donna in mezzo, uno dicendo che gli altri sono maschi, si trova anche un po' a disagio parlando, non è troppo spontaneo secondo me. Vabbè. Invece non è una donna spigliata, cosa del genere, che sappia anche rispondere alle battute magari provocate. Quello sì, ma è una questione di piacere, a lei piace la parata. No, non ho chiusa. Però io ho sentito da persone che hanno lavorato per tanti anni che sono successi dei problemi gravi per questione di donne, invece famiglie che sono andate a bisticciare, o marito è andato a cudire a un altro, perché stava, secondo lui, cercando di atteggiarsi con la moglie o con la fidanzata. Già, io ne so le cose, so anche di cosa, di cose varie. Ma sono cose che possono capitare anche nella vita normale, quelle. Se tu ricordi di due buoni, ti rimane buono su casa, mio, Roberto. Veramente d'accordo, però magari il marito geloso, che interpreta male magari una battutina, una cosa del genere, lui ha la masturbazione cerebrale, la giamba in capo, chissà cosa si sente, e pensa subito male magari per una battutina senza malizia, e di lì infatti ci sono i guai grossi. Bisogna che ci sia gente che si sappia comportare, che non vada oltre le battute che si possono fare, che non guardino diciamo l'amicizia e il rapporto con una donna, perché io voglio dire, dico la verità, ho sempre avuto più amiche donne che amici maschi. Meglio per te, cosa vuoi che dica? Mi sarei preoccupato se avessi avuto qualche amico maschio al posto di un'amica donna. Ma io parlo di amicizia con la maiuscola, Sto scherzando, non capisci, ma già. Già, è capitato anche quello. Vabbè, sono cose un po' personali, a parlare con la foto. Però è capitato anche quello, che un'amica si è innamorata di me, però quando me l'ha detto sono rimasto di stucco. Mi cazzo è brutto, mi cazzo poi quando non lo capisci, è peggio di me. No, ma io... Diciamo che l'amica era anche carina, tutto quanto a me piaceva, e però con l'amica l'amicizia sono tante volte, capito, ci passi sopra, sì è carina, non è solo innamorato, però questo qua si è messa con un altro, allora il ragazzo a me un giorno mi ha trovato in piazza e mi ha detto mi deve fare una cosa cortesia, tanto che non fa piacere, e tu dimmi se è cosa, non andare più dalla, vabbè non posso fare il nome, da lì, la ricreazione perché mi dà fastidio, io sono un ragazzo, mi ha detto questo sono un po' geloso, questo è quell'altro, quando io ho detto a lei che mi hanno fermato, mi ha detto continua a venire senza problemi, ma lo sai, ma perché mi ha detto così? Perché tu non l'hai mai capito, ma io ero innamorato di te e glielo ho detto. Però naturalmente prima di fare con tua moglie. Se no non avrei manco detto. Se no sono solo un luccio. Però mi ha fatto piacere, senza ombra di dubbio. E già lo sai, mi ha fatto sempre piacere, un bel complimento. Ah, mi sono mangiato un po' di lipa perché... Sì, io... Quando puoi dire, ci sono veramente in piazza, lì mi veniva incontro, mi abbracciava tutto, si faceva rossa rossa. A me... La mia moglie, che allora era una mia attuale amica, e mi dice, ma secondo me lei è innamorata di te, ma è un'amica, ma come sei tu? esercizio si è sposata, però secondo me un debolino ce l'ha sempre. Occhio. Quando mi viene diventa sempre veloce. Ah, perché la rivedi adesso come adesso? No, dico, ci troviamo perché praticamente siamo ancora amici, a volte ci troviamo in strada, così ci fermiamo, no? E mi dà bacio, ci fa subito rosso. Quando me ne andavo a fare servizio. Oh Gianni, Sì, una cosa, aveva un periodo non la sono fatta questa. Qua io ti sto dicendo solo una cosa. Abita la zona di Ale Mamili, buon punto. No, no, no, già ho capito che sta dicendo. Ma lì c'è il vizioso un brutto, io mi conosce quante donne si aveva appresso. È lui che è vizioso. Ecco, io sono invece il contrario. Tu Daniele lo conosci quello che sto cantando con lui? No, no, non lo so, ma no, io questo tipo lo conosco perché ha avuto delle storie con certe persone che dico io, che stiamo parlando della stessa persona. E questo tipo ci avrà, io penso adesso ci avrà sui 50 anni, 48-50 anni. No, non ce li hanno. Allora stiamo dicendo la stessa persona. Avrà un 43 anni. Allora, se quello che sto dicendo io, c'aveva anche i baffi, portava i baffi, un tipo, diciamo, poteva anche piacere alle donne, ed era una famiglia benestante. No, no, no, non è lo stesso. Questo che dico io, il cognome inizia con la P, lo stesso, ma è probabilmente un'altra persona, perché lui abitava la Viale Mameli, ed era amico praticamente di quello che si è sposato l'amica mia. No, non lo so, come un finale il cognome, quello che dico io. No. No, un'altra persona. Questo sono dicendo io è proprio vizioso, questo era vizioso, stava bene di famiglia e è iniziato a circolare in ambienti strani. Perché quando hanno provato tutto, non è, poi si danno anche a questi vestiti, capito? Sniffano, giro di donne, c'è chi va con giro di donne, c'è chi va con quello dei maschietti. Io avrei preferito quello delle donne, vabbè, comunque uno lo fa per provare così di veloce e senza essere di veloce. Avanti, Mario. È un bel discorso che avete stasera. Stasera, là, è bello, bello, molto interessante. Continuate, continuate, io vi ascolto. Arrivo. Dico io, mi sono fatto un ambulo del nome che mi c'è il sindaco. In generale lo comunque hanno fatto una cosa roba che questi hanno un giro di donne allucinate e belle donne avvicinano molto le belle donne probabilmente per studiare il comportamento modo di fare non lo so ma l'aveva tenuta Paolo Luca ti ricordi quello che ha nominato tu l'altra volta chi si è certificato il vostro così no se io Bruno ripeto, non lo conosco e niente, no. Non so cosa dirti, Robe, dai quel telefono. E la Maria come si dà già? Ma è la braccia. E via. Perché non la conosci. Tanta verità. Stava sempre lì di fronte a capita. Dopo ti cazzo delle sciupini una volta la cosa. Ma non sono stato in particolare di quel tipo, noi eravamo con degli amici miei, prima di sposare, fa un sacco di anni fa, stavamo passando in macchina, ci siamo fermati, stavo in ginaggio, ci stavamo prendendo in giro, aspettano, e mi fa questo amico mio che era seduto dietro, a te ti conosco, tu passi sempre qua, non sto guardando, tu mi piaci, c'è sempre da di mano, mi muovo in mano. E magari era anche vero, la strada. Mi sto dicendo che dai tutti i particolari, lui passava lì perché abitava lì la ragazza, sai che lo vedeva tutti i giorni, l'ha detto tu non ci passi qua, lo sai che mi piace, e lui ci dà anche una maestra così, dice, allora a me mi piace lui, e anche mi andava lì, che verrà dietro, seduto dietro, e l'ha detto tu passi tutti i giorni, qua, fai lì da giù, ma non muori, dice, cazzo, e cazzo a me lì, sa te. E che cosa sembra almeno un ragazzo, sembra un maschio normale? Dice che è un grande giardiniere quella persona. Mi hanno detto che un artista facendo, curando, facendo per dire, il lavoro suo, diciamo, fiori, cose del genere, dice ci mette un amore, dice, e giù più mai. Quando non ho detto che ti cura. Quando era di tutti i giardini, come si chiamava, la giardiniera di fronte a San Giuseppe, è uscita in piazza, lui sì. No, quello io non lo conosco, conosco Maria la data perché è una vita che ho fatto. Ma tanto, non lo so neanche se sei ancora vivo. Io ho visto come è andata, dove l'hai visto dopo? No, davanti ho visto come è andata, però sto dicendo, e poi non so se sta dicendo che quello lì viene, tutti i giorni a Sassari, però è di Zenna che mi va. Ah, non è Sassari? Assolutamente no, viene tutti i giorni a venire almeno, io quando sto parlando di, sai, quanti anni fa, 15 anni fa che l'abbiamo visto, quante volte si andava a scherzare, così si andava in compagnia in macchina, in giro passata, è capitato che c'era lui lì a scherzare e a ridere. E comunque a questo amico scritto l'ha riconosciuto, che ne risa, ha raccontato tutta la vita, eccetera, eccetera. Sì, io non so cosa faccio, ma non lo so, mi raccordo con la cancilli, praticamente mi avvicinavo alle mattone e mi chiedevo quanto prendevo, ricordo, con il microfono calcato, capito? Lo sentivo più presente, vado più frequente. Quando eravamo ragazzi la facevamo pure noi, anche lì tutti i ganti, era uno scherzo, però devi stare attento, se trovava una cosa del genere, cazzo ti trovava la polizia, cazzo ti arresta immediatamente, prima era diverso, cioè ti dovevi avvicinare, andare, mentre adesso sono loro che te ne vengono in matta, ferma, ferma! Non so se non mi ha detto che non è punibile la prostituzione, non so se lo è l'ispettore di polizia, ma è detto che è punibile l'addestramento, praticamente quando loro ti chiamano così, le possono punire, se passano avanti la polizia li va a vedere la vista, non è quello l'addestramento. Non lo so, è una cosa, io secondo me sarebbe bene liberalizzarla, la prostituzione però fatta come deve essere fatta, in certi ambienti, con i medici, eccetera, eccetera, con le, tutte le garanzie dell'anonimato, eccetera, eccetera, cioè trovare una zona chiusa, tipo un cinema all'aperto, tu entri dentro, paghi il biglietto d'ingresso, ti identificano con il numero di patente o di un documento, eccetera, eccetera, entri dentro, così sanno chi entra, tariffe fisse, in modo che ci sanno tutti, secondo me è la cosa migliore, così tutti questi problemi di niente, di malattie, cose del genere, finirebbero, come fanno ad Amsterdam, non hai visto lì? A me non mi sussiste questo problema perché non ci sono mai andato, è una cosa che ho sempre odiato, diciamo che è una cosa che ho fatto sentimento così, a me non va. Vabbè, quello è un altro discorso, io sto parlando, ci sono delle persone purtroppo che non hanno possibilità, non lo so, per motivi loro, chi ci vuole andare ci va, però una cosa farlo con i criteri giusti, cioè puliti, ordinati, un'altra cosa è andare in mezzo strada, se passi nel pezzettino della strada di ricordo di metà che si chiama Pratamona, tu li buttati in strada, nelle strade, due pezzi di ricordo di ritraccio di cartone si buttano di lì, è una cosa allucinante. E da voi che si niente, ma calendare, non si ha più nato. Guarda, è fatto per quello che dico, non sarebbe meglio, visto che lo fanno comunque, ma sarebbe meglio regolarizzarla la cosa, secondo me, almeno. Se lui ci mette della droga, assolutamente contrario, la droga non deve esistere, però se mi parli della prostituzione deve essere legalizzata, secondo me. Fai pagare le tasse, dice l'importo è sulle entrate. La cosa, la ricevuta fiscale di Tugato, il proprio lavoro anche quello devono pagare anche loro le tasse. Noi quando andavamo, io qualche volta andavo per questo lavoro si va in continente, tu mi vedi che in continente si organizzano, sono dei camper, sono delle donne anche sposate, delle donne che così che fanno, anche con la casa lì, che ti danno un camper, si mettono nelle autostrade loro e hanno già clienti fissi. Diciamo, non dico proprio così, però fanno un lavoro ordinato, diciamo, regolarizzato. Guarda, se vedi quello che ho visto io, allora quando sono andato a Ghana, ho fatto quei paesini vicino a Sirmione, Riva del Garda, tra un paese e l'altro c'era un sacco di prostitute, anche di giorno, dalle 9 di mattina, io ho viaggiato alle 9 di mattina, ho visto una prostituta a seno nudo e mutande tutto ridotte. Purtroppo, infatti, per evitare queste cose qua non è meglio fare regolarizzare, io non ho giusto preso perché li hanno chiusi questi bordelli, i famosi bordelli del Sila 60, fino a che non c'era. Guarda, mio socio mi ha detto che quando era a Roma faceva servizio lì, quando erano ancora a Pestino, e allora non va a fare su una limita non, che controllava la Roma Filistina, che ne so perché usciva, la cosa che ho visto è vedere un prete. Con cui pensavo di essere amico, mi confidavo, eccetera, eccetera, non mi sono dato questo. Non so io. No, ma è brutto, io mi ricordo, tu non hai conosci da via dei palloncini, hai conosci da giù, dietro i militari. Io ho capito cosa stai dicendo. Sì, Che cosa avete chiesto la carbonati? Sì, non la traversa di gas, perché adesso la stanno facendo nuova, guarda, la lì stanno facendo il muro di cinta della montagna, che andava verso via Milano, lì qua si chiamava la via dei palloncini, noi li chiamavamo anche per dire il mondo quando eravamo piccolini, e lì andavano le coppiette, dalle danze e si in cibi. Andavano lì, noi eravamo piccolini, ragazzi di 12 anni, 13 anni, li dai a vedere le prime consente, diciamo, esperienze. Là. Era una cosa schifosa e dico non è bello che le va a cosa non è meglio farle in un posto ordinato, trovare tipo come una casa, qualche ambiente tutto restante, tutto ordinato col medico per i controlli eccetera eccetera, tutti certificato medico prima di entrare. Allora loro dovevano fare un certificato delle visite ogni settimana dovevano andare dal medico a fare tutte le visite possibili e immaginabili. è più antico del mondo. Vabbè, questo si sa, che è più antico del mondo, anche se non è il più vecchio, diciamo, ma è più antico. Guarda che quelli che sono dentro le case erano vestissimo, non avevano lavoro, non c'è niente, anzi quella gente lì, quelli che sono in vetrina, i soldi non ne vedono neanche, loro fanno poi quando hanno finito la giornata, una parte va per il locale, una parte va per la tasse, condivido il CGTP di mestiere, comunque io lo faccio che non vuole nella sua vita, non c'è problema, io rispetto a tutti, avanti Luca, a Luca Caputo, come ho detto in strada. Ecco, un bel argomento che abbiamo trovato, una bella discussione interessante e con grande partecipazione. Questi ci sono argomenti, di tutte le cose bisogna parlare della vita, non è che devi parlare solo di una cosa che ti fa piacere, di una cosa che... Tra la riunione di Platamona verso Castelzano, c'è anche uno schifo, tutto mi chiamano, capito? Mi chiamano, mi fanno segni allucinanti. E niente, io faccio finta di nulla, no? Non faccio finta di non vedere nemmeno, mi chiamano che faccio vieni, mi fanno con la mano. Adesso purtroppo sono scattate, loro devono guadagnare la giornata, ma molte di queste persone non lo fanno con troppo, cioè lo fanno perché non hanno soldi, sono queste senegalesi, nigeriane, non posso senegalesi, nigeriane sono morte, almeno erano morte, venivano qua per guadagnarsi qualche lira e basta. Però poi ci sono quelle polacche, purtroppo lì ci sono anche altre situazioni. E russe pure. Quelle che stanno nei locali magari non è che lo facciano tutte, che magari sono in cinese, si avvicinano, si limitano al bacio e basta. Allora ti ho visto pure le cinesi, ma hai visto cos'era, facciamo che stiamo a quel programma, le Iene, hanno fatto vedere le cinesi che stanno bruciando il mercato, e più che mai, dice, gli altri stanno bruciando, dice, tutte le altre cose, adesso dice anche, e dice, tutte si stanno aumentando, dice, non è possibile, cazzo, se noi chiediamo 50, loro chiedono 20, dice, un rapporto dura, nel nostro caso, dice, dura 10 minuti, dice, direi anche un'ora dura il rapporto, dice, qualità prezzo, dice, molto, mi hanno fatto le prove, gli inviati, eccetera, eccetera, ma era assurdo, non so, stavamo parlando di mortadella, non parlando di corpo umano. Io l'altro giorno l'ho visto, alle Iene ho visto quello che fanno i fibre d'oro. Da una volta che c'erano quelli lì, dice in Ungheria costava metà di che qua in Italia un film. Spendono molto male, so che vanno là, capito, le conviene là. Però ti stavo dicendo, ma perché non le visto che hanno chiuso la casa l'appuntamento di quelle aperte, diciamo così, vicino a regione di Giuseppe Maria. Sì, ma chiudono lì una brionata da un'altra parte, ma sono nella sotto commerciale a millesimi in Europa. Sta diventando una cosa allucinante lì, di tutti i generi, c'è cioè, nella polizia si va più talmente rischioso col pezzo. Devi stare attento, se va la macchina sola rischi la vita lì. Devono andare a fare una vettata con 3 o 4 o 5 macchine, lì forse riesce a fare qualcosa. Se va la macchina da sola devi stare attento come si muove lì. Ma dove c'è questa mercata? No, senza commerciale di Blattamona sto parlando. Tu pensa che quando io con la casa sotto sottotitoli, una mattina o l'altra puntava a questa cosa perché non sapeva dove era la casa, e tutti si fa trovare all'entrata e andava a pescare insieme. Tu mattina questo alle 4 mi dà l'appuntamento, alle 4 meno 10 io arrivo lì, poi arriva questa tipa, bella ragazza, tutta vestita in pelle, minigonna, ultimo grido, qua l'alberiero lì con quel locale che c'è. Poi siamo usciti a tutti, poi siamo usciti a abbracciare, arriva questo amico mio, come ti pare questo come me? Cazzo, ha detto che pensava che fossi io, no? Non mi offendi Gianni, non sapeva se scendesse alla macchina, guardare, fare, cosa. Poi alle volte l'hanno fatto, cazzo, un raio mi è varato, mi pare che viene anche prendi due agli. Cazzo, con la rete, dice, siamo a 6 punti gli occhi, dice. No, diciamo, devi stare, ma io conosco gente che si è rovinata la famiglia, niente, grande, benestante, ha trovato queste ragazze qua, ungheresi, coraggiosi, questi paesi dell'est, e tu devi vedere, e loro sono convinti, gente di, anche famosa, certo, che sicuramente conosci, lì, ma io già ne conosco uno, e te l'ho nominato l'altro giorno, di una ex concessionaria. Questo tipo qua ha fatto una bugliosa di figlioli e tutto per andarsene con questa tipa. Tu dici beato lui, io dico che è un grande imbecille perché si vede lontano che questa tipa ci sta solo per interesse. Allora, ma tu che fanno così secondo me? Secondo me non interessa sposarsi qua e si mette le persone che fanno la comunicazione come la residenza qua, di modo che poi vivano tranquilli, no? Poi invece ci sono i casi come questo amico mio, invece questo qua ha un gran metro di età, adesso c'ha 53, 50, forse ci vedi più di 53 anni, questo qui era sempre signorino, lo vogliamo nel giro, ma quando è lui dice, non riesco a trovare mai nessuno, eccetera, eccetera. Siccome c'è mio cugino che ha una zia missionaria in Brasile, non ti preoccupare, è già stata fortuna, la puntata della ragazza al Brasile, questa bravissima ragazza, poverissima, ci sono grande età, più o meno come lui l'età, lui aveva 50 anni all'incirca, allora adesso lei aveva magari 6-7 anni di meno, e ha trovato questa ragazza, una ragazza serissima, si sono sposati, due figli, eccetera, e lui ha trovato la felicità, vai e tocca gliela adesso a questa figlia. Ci credo. che la trovavamo, la scontravamo, la chiesino, se non c'era la cittadina che scontrava, non sarebbe avuto così, per questo giusto. Ci sono stati però, no, non è nessuno, lui non è nessuno come Belletta, lei altrettanto, si sono trovati tutti e due, una bravissima ragazza di quelle attaccate agli ascolti, pensiamo ai valori della famiglia, eccetera, sono trovati, sono portata pure, sono andati in Brasile, le hanno aspettato i genitori, sono una famiglia di poveri, poverissima, dice, che stanno tipo con le foreste, eccetera, eccetera, dice che stanno di lì dalle campagne. Si è trovato questa ragazza, dice loro, lui il suo disse la senti, lui non mi vibrato per questa ragazza, grandezza, era. Vabbè, vuole fare la sua sarà. Beh, diciamo che gli ha fatto conoscere magari l'amore, gli ha fatto conoscere la felicità, perché se lui non trova una ragazza non faccio che fosse molto felice. Queste cose qui sono cose, ma ce ne sono anche provate, ce ne sono anche rumore che sono ragazze felicissime, non è detto che tutte siano così. Questo che conosco io, invece un altro amico mio ha già fatto una bufurbaleggio, più o meno giovane come lui, questa qua era cubana, eccetera eccetera, sono fatti insieme, si sono sposati, lui scemo gli aveva iniziato a fare regali, a regalare la macchina, a regalare l'appartamento, eccetera eccetera, abbia dovuto dire a un certo punto, questa qui si è stufata e l'ha lasciato di lì, e lui per cercare di divorziare da questa tipa, non so perché aveva avuto, ma tu i soldi me li ha voluto dare, aveva voluto passeggiare per darmi i soldi, perché se non lui, non so, non voleva divorziare questa tipa, non so cosa fare un cavolo di successo, una situazione, ha dovuto dare una barca di milioni per cercare di farci ottenere il divorzio da questa tipa. Ma ho sperato allora che tu coniugale l'avrebbe dovuto mangiare lo stesso. Non era così, questo non è un architetto, non è nemmeno un macco, però dice, per cercare di togliere la ritorno ha dovuto pagare una barca di milioni. Alla fine è stato con l'accettato e se ne è andata, se ne è tornata a Cuba. Sì, ma non la moglie che dice, se si è fatto prendere il giro così, scusa, si sa che questo è, vabbè che quando è innamorato l'amore è cibo. Oh, già niente, dopo un attimino, 10 minuti di bianco, 5 minuti di bianco, riprendi mai uno che ci sei, o Luca. Buonasera. Ciao Roberto. Facciamo bene andare alla valle, mi sto ascoltando. Ma non c'è più la banda marcia, sono quelle uguali. No. No, come non c'è più all'interno. Caspita, quindi sono rotte a 100%. L'unica cosa che c'è più grave è se non dai il coso, il mantenimento alla moglie. Eccetera, la cosa molto più sicura che la moglie lascia il marito a casa con il figlio. Ma io mai da tanto lo sapevo, tutto congiunto. Ma io ho un conoscente che la moglie ha fatto causa alla moglie e praticamente ha dimostrato che lui poteva avere figli meglio che la moglie, quindi sono stati affidati a lui. Ho giù nella valle, Allora, è strano, tu arrivi e noi no, molto strano, vabbè, vabbè, c'è un abisso, Un abisso, c'è un abisso alla margherita. Ma tu hai preso un po' la margherita, che non riesci a non l'hai visto? Ma chi? Antonio, come, non l'hai visto? Sono aspetta, ma Antonio, cosa, tu sei qui là? Ehi, non l'hai visto? No, non l'ho visto, perché... Cazzo, come l'hai visto? Come è Roberto Antonio? A me ne hai visto, sì. A palazzare. Io, spaghetti e croccoli. Ma non l'ho visto. Ah, non mi hai visto le marghiotte a me? Ehi, ma tu non l'ho visto. Dove era? Quello che sto dicendo. Ehi, la mattina la favo. Eccolo qua, allora non l'ho visto. Guarda da qua, dai, da un po' la linea. No, si sta facendo le macchie. Tu mi hai Roberto, ma tu? Ma che mi hai già detto? No, te la sta tirando dritto. No, stava la tagliando capelli, con la fratella mi ha visto. E c'è Fabrizio in macchina. Io sono arrivato, signori. Vi mando i miei più cordiali saluti. Ci sono bello a tutti. Se mi maradona, intanto. Ciao, ciao, Roberto, ci sentiamo. Avanti, Roberto, se sei arrivato. Ciao, Roberto, ciao, ciao. Tante cose, tante cose belle, le produci. Avanti, Mario. Mario è andato a caricare. Ciao a tutti. Ciao, ciao. A carica, a carica. Via, via. Ma è la tua gialla, già, il bar, già. Poi mi sono la pallina bianca, ma è giallo, ma che feo, un cazzo. Dai, anche lui, scusi, poi, come sta la ingiallisce? E infatti me ne sono accorto. Ma una cosa che ingiallisce rimane così, buono. Veramente, adesso che funziona, la bue. Del resto, sì. No, così muovi, cazzo, allucinante. Ma adesso va giù per le luci, a me non ti fanno manco rossando giallo. Ehi, ahi, allora, a porta anteriore sono 4 watt già. 4 e mezzo modulati. Sono pochi. Ah? Sono pochi. Pochi e nuda. Ma 63. Ah? E allora? Ah, adesso non con la valza staccata, se vuoi vedere di nuovo allora. No, ho staccato, cosa mi fa, per carità? No, no, no. Meglio niente. Comunque, l'alimentatore, c'ho due baracchini attaccati. La lampadina del rosmetro, sono cellulare. E poi c'è un DJ attaccato, un cavo non si vede, aspetta il telefono già. Torna! Ma è che... Alla Gianni, mio compagno.